Il terzo anello, ad alta voce. Il richiamo della foresta di Jack London. Traduzione di Gianni Celati. Spitz era un lottatore molto esperto. Da Spitzbergen all'Artico, attraverso il Canada e le isole Barrens, aveva tenuto testa a qualsiasi tipo di cane e sempre aveva finito per sottometterli. Il suo furore era rabbioso, ma mai cieco. Nella sua brama di dilaniare e distruggere, mai dimenticava che il nemico era preso da uguale brama di dilaniare e di distruggere. Quindi mai s'avventava sull'avversario se non quando era pronto a difendersi, e mai scatenava un attacco prima di essersi difeso. Invano Buck tentò di piantare i denti nel collo del grande cane bianco. Dovunque le sue zanne colpissero, in cerca di carne morbida, trovavano le zanne di Spitz a contrastarle. Così le zanne cozzavano contro le zanne. Le loro labbra erano tutte spaccate e sanguinanti, ma Buck non riusciva a penetrare nella guardia del nemico. A questo punto egli si infiammò e avvolse Spitz in un turbine di assalti, mirando più volte a quella gola bianca come neve dove appena sotto la superficie palpitava la vita. Ma ogni volta, puntualmente, Spitz lo colpiva e balzava altrove. Allora Buck prese a lanciarsi sull'avversario come se mirasse alla gola. Poi, d'improvviso, ritraendo il capo e sgusciando sul lato, dirigeva la sua spalla contro quella di Spitz per ribaltarlo come un ariete. Invece, ancora ogni volta la spalla di Buck restava dilaniata, mentre via balzava Spitz con leggerezza. Spitz era illeso. Buck invece grondava di sangue da ogni parte e ansimava con fatica. La lotta diveniva disperata, e quel cerchio di lupi silenziosi intanto attendeva il momento di gettarsi addosso a quello dei due cani che sarebbe caduto e finirlo. Quando Buck cominciò ad avere il fiato grosso, Spitz prese ad assaltarlo, costringendolo a puntare i piedi per tenersi ritto. Una volta perse l'equilibrio Buck, e tutto il cerchio dei 60 cani scattò in allerta. Ma egli riuscì a riprendersi prima di toccar terra, e i cani in cerchio si rilassarono in posizione d'attesa. Tuttavia Buck possedeva una qualità necessaria alla grandezza, la fantasia. Combatteva d'istinto, ma sapeva anche combattere col cervello. Si lanciò dunque come se ancora una volta tentasse il vecchio trucco della spalla. All'ultimo momento, però, s'abbassò rasente la neve penetrando nella guardia dell'altro, e i suoi denti si serrarono sulla zampa anteriore di Spitz, quella sinistra. S'udì uno scricchiolar d'ossa che si spezzano, e il bianco cane rimase a fronteggiarlo su tre zampe. Tre volte tentò Buck di rovesciarlo, e infine ripeté quel trucco, spezzandogli anche la zampa destra. Nonostante il dolore e le condizioni disperate, Spitz lottava in modo forsennato per tenersi all'impiedi. Vedeva quel cerchio silenzioso, fatto d'occhi che brillano, lingue che pendono, fiati argentei che salgono in alto, mentre si chiudeva su di lui. Come in passato aveva visto cerchi simili chiudersi su avversari sconfitti. Questa volta, però, lo sconfitto era lui. Non v'era speranza per Spitz, e Buck era inesorabile. La misericordia era una cosa riservata ai climi temperati. Buck si mosse per l'ultimo assalto. Il cerchio si strinse fino al punto che egli poteva sentire i fiati dei cani eschimesi sui propri fianchi, e li vedeva dietro Spitz e tutti attorno a sé, già raccolti per il balzo, con gli occhi fissi su di lui. Vi fu come una pausa. Tutti gli animali erano immobili, quasi fossero divenuti di pietra. Spitz soltanto tremava, col petto irto, barcollando avanti e indietro, ringhiando minacce in modo orribile, quasi volesse atterrire la morte incombente. Poi Buck si lanciò su di lui e si ritrasse, non senza essersi finalmente ritrovato spalla a spalla mentre gli era vicino. Sulla neve inondata dal chiarore lunare l'oscuro cerchio divenne una macchia e Spitz disparve ai suoi occhi. Rimase immobile dov'era Buck, a osservare. Egli era il campione vittorioso, la primordiale bestia dominatrice che aveva recato la morte e ne gioiva. Cosa ho detto io? Ho detto o no la verità che Bucca è due diavoli? Così parlava François, l'indomani, quando constatarono che Spitz mancava e che Bucca era coperto di ferite. Quello Spitz ha lottato come un matto, disse Perrault esaminando i tagli e gli squarci nella carne. E quel Bucca come due matti, fu la risposta di François. Adesso sì, andiamo veloci, Niente più spitz, niente più seccature, sicuro. Mentre Perrò riuniva gli attrezzi del campo e caricava la slitta, il conducente procedeva a imbrigliare i cani. Buck trotterellò verso il posto che Spitz avrebbe dovuto occupare in quanto capo. Senza averlo notato, François, invece, portava Sollex nell'ambita posizione, perché a suo parere Sollex era il miglior cane di testa rimasto. Al che, infuriato, Buck si lanciò contro Sollex, facendolo retrocedere e occupando il suo posto. «Guarda quel Buck!» gridava François, picchiandosi le cosce allegramente. «Guarda quel Buck! Lui ha ucciso quello Spitz, lui vuole prendere il suo lavoro!» «Ma vai via, stupido!» gli gridò. Ma Buck rifiutava di muoversi. Allora François prese Buck per la collottola e, per quanto il cane ringhiasse minaccioso, lo trascinò da parte, sostituendolo con Sollex. Ciò non garbava molto al vecchio cane, il quale dimostrava chiaramente di temere Buck. François era inflessibile, ma appena ebbe voltato la schiena, di nuovo Buck fece spostare Sollex, senza che questi opponesse la minima resistenza. François era in collera adesso. «Adesso, per Dio, ti metto a posto!» gridò, tornando con un pesante bastone in mano. Buck ricordò l'uomo con la maglia rossa e lentamente si ritirò. Poi, quando Sollex venne ancora una volta portato nella posizione di testa, non fece alcun tentativo d'assalto. Invece prese a vagare in cerchio, fuori dal raggio d'azione del bastone, latrando con rabbia e amarezza. Mentre girava in tondo, teneva d'occhio il bastone, in modo da scansarlo, nel caso François glielo avesse tirato dietro, siccome in materia di bastoni era diventato piuttosto prudente. Il conducente continuò a occuparsi del proprio lavoro e, quando ebbe finito, richiamò Buck per metterlo al suo vecchio posto, davanti a Dave. Buck retrocedette di qualche passo. François si fece verso di lui, al che l'altro arretrò ancora. Dopo che questa manovra si fu ripetuta un bel po' di tempo, François gettò a terra il bastone, immaginando che Buck temesse un castigo. Ma Buck era in aperta rivolta. Non cercava tanto di sfuggire al bastone, quanto voleva il posto di comando. Era suo di diritto. L'aveva conquistato e non si sarebbe accontentato di niente di meno. Intervenne Perrò e i due uomini inseguirono Buck per quasi un'ora. Gli tirarono dietro i bastoni che il cane evitava. Maledirono lui e i suoi genitori e tutti i suoi antenati, nonché la sua stirpe a venire fino alla più lontana generazione. Egli rispondeva alle imprecazioni ringhiando e tenendosi fuori dalla loro portata. Non cercava di fuggire. Retrocedeva il circolo attorno all'accampamento, dando chiari segni che se il suo desiderio fosse stato esaudito, sarebbe tornato indietro e avrebbe fatto il bravo. Alla fine, François si sedette per terra e si grattò il capo. Perrò guardò l'orologio e bestemmiò. Stavano perdendo tempo. Avrebbero dovuto essere in marcia già da un'ora. François si grattò il capo di nuovo, indi lo scosse, e con aria confusa fece un ghigno al corriere, il quale strinse le spalle per segno che erano stati sconfitti. Allora François raggiunse Sollex e chiamò Buck. Buck rise, come ridono i cani, e tuttavia si mantenne a distanza. François sciolse le cinghie di Sollex e lo riportò indietro alla sua vecchia posizione. La muta era imbrigliata alla slitta, in fila continua, pronta a partire, e non c'era altro posto per Buck tranne quello di testa. Ancora una volta François lo chiamò, e di nuovo Buck rise e si tenne alla larga. «Getta il bastone!» ordinò Perrò. François obbedì. E subito Buck si avvicinò trotterellando, con un riso trionfante, per poi con un giro andare a occupare la posizione di testa della muta. Appena ebbe i finimenti addosso, la slitta partì, schizzando verso il fiume, con i due uomini che tenevano dietro a passo di corsa. Per quanto il conducente avesse sempre apprezzato Buck, e molto, adesso, fin dalle prime ore di quella giornata, s'accorse di averlo sottovalutato. D'un sol colpo, Buck si assunse i doveri della posizione di comando, e nelle circostanze che richiedevano giudizio, una riflessione pronta ed un'azione rapida. Si mostrò persino superiore a Spitz, di cui François non aveva mai visto l'uguale. Ma dove Buck eccelleva era nel dettar legge e nel farla rispettare i suoi compagni. A Dave e Sollex il cambio nella posizione di guida non interessava. Non era a far loro era far forza nelle tirelle e potentemente. Fin tanto che non li si ostacolava in questo, tutto quanto accadeva sembrava non interessarli. E per quel che li riguardava, avrebbero anche potuto metterci Billy, il bonario, alla guida, purché mantenesse l'ordine nella muta. Durante gli ultimi giorni, però, il resto della muta era diventato indisciplinato. E non poca fu la sorpresa di questi cani, vedendo che Buck si dava a rimetterli in riga per mezzo di buone batoste. Pike, che tirava alle spalle di Buck e che mai aveva applicato alle cinghie del petto una sola oncia di forza in più di quella che era costretto a metterci, venne in breve ripetutamente scosso dalla sua pigrizia, e prima che terminasse quella giornata tirava più di quanto non avesse mai fatto in vita sua. La prima sera al campo anche Joe l'arcigno ricevette un solenne castigo, cosa che Spitz non era mai riuscito a fare. Semplicemente Buck, grazie al suo peso superiore, lo abbatté e lo azzannò, sinché l'altro non rinunciò a mordere e prese a uggiolare chiedendo grazia. Il tono generale della muta si riprese immediatamente. Essa ritrovò il suo vecchio affiatamento e di nuovo i cani balzavano come un sol uomo tra le tirelle. Alle Rink Rapids furono aggiunti due indigeni eschimesi, Tick e Kuno, e la rapidità con cui il Buck li sottomise tolse il fiato a François. «Io non ho mai visto un cane come Buck», gridò. «No, mai! Lui vale $1,000, per Dio!» «Cosa dite, Perrault?» Perrault assentiva. In quel momento stava battendo ogni primato su quel percorso e guadagnava tempo di giorno in giorno. La pista era in eccellenti condizioni, dura, compatta, e non era caduta altra neve con cui combattere. Non faceva troppo freddo. La temperatura era scesa a 50 gradi Fahrenheit sotto zero e rimase tale per tutto il viaggio. Gli uomini si facevano trainare sulla slitta o correvano a turno, evitando che i cani perdessero il ritmo con arresti troppo frequenti. Il 30 Mile River era abbastanza coperto di ghiacci e al ritorno essi percorsero in un sol giorno il tratto che aveva richiesto 10 giorni all'andata. A gran velocità coprirono in una sola tappa 60 miglia dallo sbocco del lago Le Barge sino alle White Horse Rapids. Filavano così svelti che quello dei due uomini cui toccava per turno di rincorrere la slitta doveva farsi trascinare attaccato ad una fune. Infine, l'ultima notte della seconda settimana, raggiunsero le alture del White Pass e discesero lungo il pendio verso il mare, avendo ai loro piedi le luci di Skagway e le navi nella rada. Thank you. Fu una corsa da primato. Durante 14 giorni avevano coperto una media di 40 miglia al giorno. E così Perrault e François poterono andare su e giù per la strada principale di Skagway, piuttosto impettiti per 3 giorni, ed essere travolti da una marea di inviti a bere, mentre la loro muta era continuamente al centro degli sguardi ammirati di una folla di conducenti di slitta e domatori di cani. Giunsero infine gli ordini governativi. François chiamò a sé Buck, gli buttò le braccia al collo, pianse su di lui, e questo fu l'addio di François e Perrault. Essi, come altri uomini, uscirono per sempre dalla vita di Buck. Uno scozzese mezzo sangue lo prese in consegna assieme ai suoi compagni e con una dozzina d'altre squadre di cani. Buck si rimise sulla faticosa pista per Dawson. Adesso non era più una corsa leggera a tempo di primato, ma un duro lavoro quotidiano, con un pesante carico da trasportare. Già che questo era il convoglio postale, che portava notizie dal mondo agli uomini in cerca d'oro nelle ombre polari. Tutto ciò non piaceva a Buck, e tuttavia egli fece fronte al lavoro, riponendo in esso il proprio orgoglio, così come facevano Dave e Sol Lex, e badando a che i suoi compagni facessero la loro parte, sia che la cosa li appassionasse o meno. Era una vita monotona, che si svolgeva con meccanica regolarità, ed un giorno era identico all'altro. A sera tardi si accampavano, alcuni piantavano le tende, altri tagliavano legna da ardere e rami di pino per i letti, ed altri ancora portavano acqua o ghiaccio ai cucinieri. Più di tutto, forse, egli amava stare accanto al fuoco, accovacciato sulle zampe posteriori, con le zampe anteriori stese in avanti, la testa dritta, le palpebre che sbattevano in modo sognante dinanzi alla fiamma. Allora pensava, talvolta, alla grande casa del giudice Miller, nella assolata valle di Santa Clara, alla cisterna di cemento, ma ancor più spesso ricordava l'uomo con la maglia rossa, la morte di Carly ed il grande scontro con Spitz, oltre alle buone cose che aveva mangiato o che desiderava mangiare. Le terre del sole gli apparivano vaghe e lontane. Su di lui quei ricordi non avevano alcuna presa. Ben più possenti erano in lui le memorie ereditarie, che gli facevano sembrare note e consuete cose mai viste con i suoi occhi. Talvolta stava lì, accucciato, sbattendo gli occhi in modo sognante davanti alla fiamma, e gli pareva che le fiamme fossero quelle di un altro fuoco, e che mentre era accucciato presso l'altro fuoco, egli vedesse un altro uomo, diverso dal cuciniere mezzo sangue che aveva davanti. L'altro uomo era più corto di gambe e con braccia più lunghe. Aveva muscoli fibrosi e nodosi, invece che gonfi e rotondi. I capelli di quell'uomo erano lunghi e arruffati, e la sua fronte sfuggiva all'indietro, a partire dagli occhi. Altre volte quell'uomo peloso si rannicchiava accanto al fuoco, con la testa tra le mani, e dormiva. In tali occasioni teneva i gomiti sulle ginocchia, le dita intrecciate sopra il capo come a ripararsi dalla pioggia con le braccia villose. E oltre quel fuoco, nel buio attorno, Buck vedeva molti carboni ardenti, a due, sempre a due, e sapeva che erano gli occhi delle grandi bestie da preda. Poteva udire il passaggio dei loro corpi attraverso i cespugli ed i rumori che producevano nella notte. E là, sulla riva dello Yukon, sognando con occhi stanchi che gli si chiudevano davanti al fuoco, quei suoni, quelle immagini d'un altro mondo, gli facevano rizzare il pelo sulla schiena e sulle spalle, fino al collo, mentre un gemito basso e soffocato, un ululato fioco, sorgeva nella sua gola, finché il cuoco mezzo sangue gli urlava: «Ehi, Buck, sveglia!» Al che l'altro mondo svaniva, e il mondo reale veniva nei suoi occhi. Egli si alzava, sbadigliava,